Bibbia Martini, primo libro dei re venti Siri, che assediano Samaria, sono tagliati a pezzi dai servi dei principi delle province, e di nuovo l'anno seguente sono tagliati a pezzi nella pianura. Il re Acab è sgridato dal profeta per aver fatto alleanza con Ben-Hadad re della Siria, e per averlo lasciato andar vivo. Or Ben-Hadad re della Siria raunò tutto il suo esercito, e i cavalli, e i cocchi, e avea secco 32 re, e si mosse contro Samaria, e la assediò. E mandò araldi nella città, che dicessero ad Acab re di Israele, queste cose dice Ben-Hadad, il tuo argento, e il tuo oro è mio, e le tue moglie, e i tuoi figliuoli più vistosi son cosa mia. E il re di Israele rispose, come dici tu, o re signor mio, io son tuo con tutte le cose mie. E gli araldi tornarono di nuovo, e dissero, queste cose dice Ben-Hadad, il quale ci manda a te, tu mi darai il tuo oro, e il tuo argento, e le tue mogli, e i tuoi figliuoli. Domani adunque a quest'ora stessa manderò a te i miei servi, i quali visiteranno a parte la casa tua, e la casa dei tuoi servi, e tutto quello che lor piacerà, se lo pigleranno con le loro mani, e lo porteranno via. Or il re di Israele convocò tutti i signori del paese, e disse, riflettete, e ponete mente, che egli ci tende insidie, perocché mandò egli a chiedere le mie mogli, e i figliuoli, e l'argento, e l'oro, e io non ho detto di no e tutti i signori, e tutto il popolo dissero a lui, non ascoltarlo, e non condiscendere a lui. Egli adunque rispose ai messi di Ben-Hadad, dite al re mio signore, tutto quello che facesti dire a me tuo servo al principio, io lo farò, e ma quest'altra cosa non posso farla. E i messi portarono a lui questa risposta. Ed egli li rimandò, e disse, gli dei mi facciano questo, e peggio, se la polvere di Samaria può empiere il pugno di tutta la gente, che mi segue. E il re di Israele rispose, e disse, direte a lui, non si glorii chi delle armi si veste, come chi le depone. Or egli avvenne, che quando udì Ben-Hadad queste parole, egli deveva all'ombra coi re, e disse ai suoi servi, circondate la città. Ed ei la circondarono. Quando ecco un profeta si accostò ad Acab re di Israele, egli disse, queste cose dice il Signore, hai tu veduta tutta quella turba infinita? Or io la darò oggi in tuo potere, affinché tu conosca, co chi io sono il Signore. E Acab disse, per mezzo di chi? E quegli disse a lui, queste cose dice il Signore, per mezzo dei servitori che accompagnano a piedi i principi delle province. E quegli disse, chi comincerà la battaglia? E l'altro rispose, tu. Egli adunque fece rassegna dei servi dei principi delle province, e trovò nel numero di 232, e dopo questi fece la rassegna del popolo, e trovò 7000 figliuoli di Israele. E usciron fuora sul mezzodì. Or Ben-Hadad già ubriaco beveva nella sua tenda, e con lui i 32 re venuti in suo aiuto. E i servitori dei principi delle province uscirono alla testa di tutti. Or Ben-Hadad mandò a vedere. E fugli riferito, e uscita gente fuor di Samaria. Ed egli disse, se son venuti a parlar di pace, prendeteli vivi, e se per combattere, prendeteli vivi. Si avanzarono adunque i servitori dei principi delle province, e il rimanente dell'esercito veniva appresso, e ciascuno di quegli uccise chi se li fece davanti, e i si rifuggirono, e Israele GL inseguì. E anche Ben-Hadad re della Siria se ne fuggì a cavallo coi suoi cavalieri. E anche il re di Israele venuto fuori mise in rotta i cavalli, e i cocchi, e diede una grande sconfitta alla Siria. Ora accostatosi un profeta al re di Israele, gli disse, va, e fatti animo, e impara, e pensa a quel che hai da fare, perocché l'anno venturo il re di Siria si muoverà contro di te. Ma i servi del re di Siria dissero a lui, gli dei di coloro sono gli dei dei monti, per questo ci hanno vinti, onde è meglio che combattiamo contro di essi in pianura, e li vinceremo. Tu adunque fa così. Rimanda dal tuo esercito ciascun di che reggi, e poni in luogo di essi dei capitani. E supplisci il numero dei tuoi soldati, che son morti, e i cavalli com'eran quelli di prima e i cocchi come quelli, che avesti pel avanti, e noi combatteremo con coloro nelle pianure, e vedrai che li vinceremo. Abbracciò egli il loro consiglio, e fece così. Quindi passato un anno, Ben-Hadad fece la rassegna dei Siri, e andò ad Apec, per combattere con Israele. E fu fatta la rassegna anche dei figliuoli d'Israele, e degli ino provveduti di viveri andarono loro incontro, e posero il campo di rimpetto ad essi, come due piccoli greggi di capre, ma i Siri non davano il paese. E un uomo di Dio fattosi da presso al re d'Israele, gli disse, «Queste cose dice il Signore, perché i Siri han detto, il Signore è Dio dei monti, e non è Dio delle valli, io darò in tuo potere tutta questa moltitudine grande, e conoscerete ch'io sono il Signore». Ora per 7 giorni gli eserciti si posero in ordinanza dall'una parte, e dall'altra, e il 7° giorno fu attaccata la zuffa, e i figliuoli d'Israele uccisero dei Siri in 100.000 pedoni. E quelli, che si erano salvati, fuggirono nella città di Apec, e la muraglia cadde sopra 27.000 uomini, che si erano salvati. E Ben-Hadad entrò fuggendo nella città, ricoverandosi in una stanza, la più segreta. E i suoi servi gli dissero, «Abbiamo già sentito dire, che i re d'Israele son clementi, mettiamoci adunque ai fianchi dei sacchi, e delle funi ai colli nostri, e andiamo incontro al re d'Israele, forse egli ci salverà la vita». Si cinsero i fianchi coi sacchi, e si posero la corda al collo, e andarono a trovare il re d'Israele, e gli dissero, «Ben-Hadad tuo servo dice, salvami, ti prego, la vita». E quegli disse, «Se egli è ancor vivo, egli è mio fratello, la qual cosa preser quelli per buon augurio», e gli levaron tosto la parola di bocca, e dissero, «Ben-Hadad tuo fratello». Ed egli disse loro, «Andate, e conducetelo a me». Ben-Hadad pertanto si presentò a lui, ed egli lo prese sul suo cocchio. E Ben-Hadad gli disse, «Le città tolte dal padre mio al padre tuo, io le renderò, e fatti delle piazze in Damasco, come il padre mio ne fece in Samaria, e io, fatta alleanza teco, me ne anderò». Achab fermò l'alleanza, e rimandollo. Allora uno dei figliuoli dei profeti disse a un suo compagno a nome del Signore, «Feriscimi». Ma quegli non volle ferirlo. E quegli disse a lui, «Perché tu non hai voluto udir la voce del Signore, ecco, che partito da me, sarai ucciso da un lione». E dilungato che fu alquanto da lui, un lione lo incontrò, e lo uccise. E avendo di poi trovato un altro uomo, gli disse, «Feriscimi». E quegli lo percosse, e ferillo. Andò adunque il profeta ad incontrare il re sulla strada, e intridendosi con la polvere la faccia, e gli occhi, cangiò il suo aspetto. E passato che fu il re, gridò dietro a lui, e disse, «Il tuo servo andò a combattere nella mischia, e un uomo essendosi dato alla fuga, un altro lo condusse a me, e disse, custodisci quest'uomo, il quale se scapolerà, la tua vita pagherà per la sua, ovvero pagherai un talento d'argento. Or mentre io, essendo agitato, mi rivolge a qua, e là, subitamente quegli sparì». E il re d'Israele disse a lui, «Tu hai pronunziata tu stesso la tua sentenza». Ma quegli immediatamente nettò la sua faccia dalla polvere, e il re d'Israele conobbe, e egli era uno dei profeti. Or egli disse al re, «Queste cose dice il Signore, perché tu ti sei lasciato uscire dalle mani un uomo degno di morte, la tua vita pagherà per la sua, e il tuo popolo pel popolo di lui». Ma il re d'Israele se ne tornò a casa sua senza volerlo sentire, ed entrò infuriato in Samaria. Note, 20,1, Or Ben-Hadad re della Siria e c. Questo Ben-Hadad è figliuolo di quel re della Siria, il quale regnando Baasa, portò la guerra nel paese di Israele di concerto con Asa re di Giuda, 3. Regione 15. 18, 19. I 32 re, che avea secco Ben-Hadad in questa spedizione, dovevano essere piccoli principi della Siria, e dell'Arabia, suoi tributari, e parte ancora chiamati al suo soldo. 20,4. Come dici tu? Io son tuo e ci questa umile risposta, ma generale era diretta ad ammollire l'animo di Ben-Hadad e Achab in sostanza non avea intenzione di soggettarsi ad altra condizione, che che di riconoscersi dipendente, e di essere tributario di quei re. Questi però passa a specificar meglio le sue pretensioni con la seconda ambasciata, V5. E 6. 20,9, ma quest'altra cosa è C. Non posso dare a te quella che non è mio, la roba dei miei sudditi. 20,10, se la polvere di Samaria può empiere E.C. Questa è una millanteria di Ben-Hadad. Egli giura e spergiura, che tanto è immenso il numero di suoi soldati, che se ciascheduno di essi volesse prendere una manata di terra del paese di Samaria, non vi sarebbe terra abbastanza per tutti. 20,11, non si glorii chi dell'armi si veste, E.C. colui che si arma per combattere non può gloriarsi, come chi le armi depone, il quale se si gloria può con ragione gloriarsi della conseguita vittoria. È una maniera di proverbio. 20,14, per mezzo dei servitori, che accompagnano a piedi i principi delle province. In una parola per mezzo degli staffieri e ci 20,23, gli dei di coloro sono gli dei dei monti, per questo ci han vinti. Notisi la finezza degli adulatori. Ben-Hadad era stato rotto e messo in fuga da un pugna di gente, mentre se ne stava bevendo spropositatamente col suoi capitani, i suoi cortigiani però lungi dall'attribuire il suo disonore all'ubriachezza e alla trascuraggine di Ben-Hadad, dicono, che gli dei dei monti protettori di Samaria, fabbricato in luogo elevata avevano fategliino tutto quel male. Era uno dei principi del gentilesimo il riconoscere diverse divinità per diversi luoghi, pelle diverse azioni. Eci così i fauni e i silvani a loro credere potevan molto nelle selve, nei monti Leoreadi. Eci 20,26, andò da Apec Eci città della Celesiria. Vedi Ios. 19,30. 20,27, ed erano come due piccoli greggi di capre. L'esercito di Israele diviso in due ale somigliava a due greggi di capre, tanto era piccolo al paragone dei Siri. I greggi di capre sono sempre di poco numero, come notò Giavarrone de R. Lib 2. 3. E queste bestiole sono molto timide. 20,30. La muraglia cadde sopra E.C. Di quelli che fuggendo si salvarono in Apec, 27.000 furono uccisi sotto le rovine delle mura cadute sopra di essi o mediante le macchine de guerra, con le quali batterono gli ebrei la città, o piuttosto per volere di Dio, il quale per punire le bestemmie de Siri fece andare a terra le mura di Apec, come già quelle di Gerico. 20,31. Mettiamoci adunque ai fianchi dei sacchi, Eci. Erano vesti grossolane di colore scuro usate nel lutto. 20,34. Le città tolte dal padre mio Eci credesi, che Ben-Hadad parli delle città tolte dal padre di lui abbassa. Capitolo 15. 20. Credesi ancora che Ben-Hadad chiami Baasa padre di Acabbo perché questi era succeduto a Baasa nel regno. Fatti delle piazze in Damasco, come Eci. E segno di soggezione grande di un principe l'avere nella propria capitale delle piazze, dove abitino sudditi di un altro principe, che vi facciano negozio, e paghino tributo a questo e alla giurisdizione di questo siano interamente soggetti. 20,36. Perché tu non hai voluto udir la voce del Signore, Eci. Il Grisostomo illustra egregiamente questo luogo in tal guisa, colui che ferì il profeta non ebbe verun danno, e colui che per compassione non volle ferirlo, fu punito, donde si dee intendere che quando comanda Dio, si dee deporre ogni curiosità, e senza disaminare la natura delle cose comandate si dee semplicemente obbedire. Imperocché affinché quel primo non si rattenesse per pietà dal ferirlo, quegli non avea detto solamente feriscimi, ma feriscimi, perché Dio lo vuole, onde non cercar tu più innanzi. Il re comanda tal cosa, e piega il capo, e rispetta l'autorità di lui, e francamente obbedisci. Ma l'altro non ebbe cuore di farlo, e fu severamente punito, e col suo esempio avvisa tutti quel che verranno, che qualunque cosa comandi il Signore, l'obbediscano perfettamente. Questo profeta dovea così ferito rappresentare un uomo, che tornasse dalla battaglia, onde come soldato di valore ottenesse facile accesso per parlare al re Achab, il quale non avrebbe ammesso volentieri un profeta, e lo stato medesimo, in cui compariva il profeta, era una profezia di quello che doveva succedere allo stesso re e al popolo di Israele, per avere Achab salvata la vita a un re condannato da Dio alla morte. 20,42 Un uomo ecilebreo letteralmente un uomo anatematizzato da me. Ben-Hadad era degnissimo dell'anatema per le sue bestemmie contro il vero Dio. Achab crudelissimo contro i profeti fa il clemente con un ampio re nemico giurato di Israele, e lasciandolo in libertà non ha riguardo di esporre di nuovo la nazione a una manifesta rovina.